sei sottile, tu che sei mortale, tu che ti attacchi ai polmoni, mi hai rotto un po' i coglioni, tu che sei invisibile, tu che sei temibile, tu che sei impassibile, tu. Ancora tu non smetti di intossicare. Ancora tu sorvoli su questo mare. Sono passato a parlare dell'Ilva che non va, a parlare di te che non ti importa. Fermati, ti prego, pungi più di un ago, il cielo è ancora opaco, ti prego fermati. D-O-C-N-A-D-O-N-A. Ti appoggi su tutto e anche nel mio orto, rendi raccolti dei contadini sempre meno raffini. Sei nata per rompere le palle, dalle campagne alle stalle, dalle famiglie alle soglie, dalle soglie alle foglie, dalle foglie a tutto il mondo. Ehi diossina, adesso io ti sfondo. D-O-C-N-A, D-O-N-A. Dio, no. Questa è la storia di Taranto, che si riempie le strade di rosso amaranto. Apri gli occhi uomo, è inutile pregare al Duomo. Se pensi che questo a te non accada, hai proprio sbagliato la strada. Ignori ciò che succede, perché a te non accade. Ma se un giorno ti capiterà, ti sentirai solo perché è la realtà. Dio, sì, na, Dio. Dio, no. Su Facebook si parla di te, ti condividono, ti odiano, ti farebbero fuori. Taranto vuole nuovi colori e tu ti porti il tuo nome avanti, ti porti la fama nei ristoranti. Smettila di scherzare, perché ci vuoi ammazzare? Smettila di svolazzare, perché non la finisci? Tanto tu non ti arricchisci, ti prego sparisci. Dio, sì, no. Oh, sì, na, Dio, na. Paura la procura apre le indagini, ma non fa niente perché si basa sulle immagini, senza indagare sulle origini di ciò che accade vicino agli argini. I giornali scrivono stupidaggini, la loro mente vuota come cigli vergini, corrotti da uomini colpevoli del reato di fumi malevoli, scaricando il barile ai più deboli, e ti prometto non sarà così per secoli. D-O-C-N-A, D-O-C-N-A, D-O-N-A. Diossina, diossina, giù alla marina si vendeva il pesce e ora il naser lo impedisce. Questo fatto mi rincresce, ciò che accade mi rabbrividisce. D-O-C-N-A, D-O-C-N-A, D-O-N-A. Per i poveri bambini, per le famiglie distrutte, per il territorio di Taranto Tamburi e per tutta Taranto. D-O-C-N-A, D-O-C-N-A. Vattene, va.